rinnova qualche cosa, magari qualche foto dove sei più boss, su una moto, su... Ma vedo qualche cosa di più attraente. Come hai detto che la cazza l'avessi abbandonata, va a sentire la cazza d'ori, bobo. Ma allora ti dico, me ne sbatto le balle, rimango da solo e tu. E fatti bene. Ma non come posso rimanere. C'è decisione che pili non si affrettare. Sì, ma quando il sacco ne è pieno, ne è pieno già. Ma adesso sono anche stanco, se mi capita, mi capita, e se no. E vabbè, ma tu per farla capitare devi anche dare l'occasione, no? Non c'è più ma. Ogni bellezza di combattimento, non, se no dobbiamo farlo, io lo so, via. No, perché poi mi ha fatto rispondere male, ha parlato la Bibbia, e ne dico quanto mi è beato Paolo. Già quella lì mi ha scacciato solo perché ha detto no in tronco e me l'ha scritto in maiuscolo. Quello vuol dire disprezzo, perché se manco mi conosci come ti vai a disprezzarmi, non ci compreso. Vabbè, se te lo scrivi a maiuscolo così sì, è a grida. Perché te lo sento, no! È proprio così. E allora giusti, tu mi hai giocato migliore di te, mi bella bella. E lei cosa ti ha risposto? Nulla, zitta, bruciata. Ha detto, questo qui, avete detto le faccia anche a me, già le maniasse. Sì. Se la tengo in caldo. Io penso che non accetta uomini, non accetta, poi si lamentano che gli uomini scappano, per colpa, se sono aggressi che vengono così l'uomo si spaventa. Si spaventa, si rompe anche, si rompe le palle. E con la voluta la parità di diritti è più una giù, una mia. Ma voglio vedere che ribelli, arrangia di non fare la parità di diritti, così l'hai tratto proprio, l'hai tratto malissimo adesso. Mi hanno promesso di fare il togo, ma non manco fare le balle. Adesso, come non la vedo loro, una cazzo l'ha tratto una tre volte più male di come posso trattare un uomo. Vedi cattivo che sì. Ma cosa la metto nei lati? Se in nulla ti ha ripreso così, non è che vedranno in tutti. Magari in mezzo a quelle che tu rispondi male c'è quella la tipa che potrebbe essere dolce, come vuoi. Non esistono, basta, questa parità di diritti ha rovinato tutto, manca a scuola la dovevano mandare, come i talebani dobbiamo cazzo ritornare, se vuoi la donna come si deve. Hai ragione, va, mi fanno il duccio, in gloria di sia. E me, a Capri 2. Natalino oggi ce l'ha con le donne, le sta bestemmiando. Conosci l'N300? l'M300 e farebbe il microfono. Yeah. Sì, lo conosco, ce l'avevo anche. Stavo ascoltandomi questa radio qua che sto usando adesso. Ma cioè, secondo me si assomiglia a quel tipo di microfono lì. Stavi ascoltando. E dove stavi ascoltando? Io l'altro giorno mi stavo ascoltando con questa radio che sto usando. C'è la somiglianza dell'M300. No. Questo è un microfono che dà una bella radio, l'M300 non è così, va, è diverso. Anche se io non mettevo l'eco, c'era un'amplificazione tremenda dell'M300, gli avevo cambiato anche i trimmer io per alzargli l'amplificazione e rallentare l'eco. Ma no, se volevo fare con l'interrogativo, se volevo fare solo. No, questo è il suo, dalla casa, l'eco ce l'ha, lui ce l'ha, non è che io gli ho messo niente, lo sai benissimo che... No, invece la timbrica, io ascoltandomi così, mi sembrava che io ero con l'M300. No, perché c'è la voce bella con i bassi, tu, come posso averla io... Capito, è la timbrica tua quella che ti fa quell'effetto lì, ma non niente a che vedere con l'M300. Allora, non sembrava proprio, vabbè, sempre dalla Intec, ma anche, mi sembrava proprio una cosa del genere. Non ho mai provato io l'M300, ma sembrava che, cioè io ascoltando, mi sembrava come che ci avessi l'M300. Sì, ho capito, no, ma è la timbrica tua che ti dà quella sensazione, perché c'hai i bassi, tu capito, e c'hai una bella modulazione con quel microfono. Vabbè, questo non è dinamico, questo è l'elettrico, come cazzo si chiama. È elettrico, così? No, c'è proprio la parola giusta, è elettronico. È diverso da quello tuo, è preciso il tuo, però non ha niente a che vedere, quel tuo dinamico, questo no, tutto della differenza, è l'unico microfono che va bene a questo apparecchio originale suo. Sì, infatti ti dà una bella timbrica quello lì, è bello, una bella modulazione, riprendi già. E quale già? Comunque Natale sono essere fatto di questa roba. Tu già al posto di Natalino quello avevi fatto, quello che avrei potuto fare io. Non c'è Gianni che sta parlando al telefono con Pierpaolo. Io ce l'ho a Natalino, sai dove? Subito. Sì, no, questa qui non so cosa ha fatto, mi ha scritto no in maiuscolo. Che equivale che sta gridando, nel senso, io gli volevo dire se voleva parlare con me a questa qui in chat, no. E mi ha risposto così, no, in tronco, però me l'ha scritto in maiuscolo, in senso di rispetto. Se non mi conosci, come fai a essere prevenuta nei miei discorsi, nei miei confronti, ho detto, tra me e me. E allora gli ho scritto, non c'è problema, è minuscolo, per fargli capire che non me ne fregava niente. Me ne ho fatto meglio di te, male sono andato. Benissimo Natalì, benissimo la risposta. No, io pensavo Natalì che era quella che avevi prima. No, quella era una rompiscatole matricolata già. Quella era una rompiscatole matricolata proprio, no. Niente a che vedere. Questa manco mi conosceva, fatti il conto, ecco perché mi sono alterato io. Perché manco mi conosceva e subito mi dici di no così, senza spiegarmi la ragione, me lo dici incazzata, boh, magari avrà avuto le sue cose, non lo so, però non è il modo di rispondere a una persona che tu non conosci. Infatti, da di noi pensiamo che all'Udemia quella che avevi prima. Niente, no, anche io per quello lo si chiama, per quel decoro, quel nome interessante. Facebook, queste cose, computer, qualche quanto è vuoto, quali cazzo, diciamo, che aspetta, donna come si può prendere il sopravvento, perché faccio il buono buono, però non so così come mi vedete. E anche io sono così. Io sono entrato gentile, tutto quanto, con dei bei modi, e questa mi risponde così. Ma per forza ti fa perdere le tappe, va? Ok, però le nome sono fatte così, Natalie, hanno sempre un po', come si chiama, secondo loro, un gradino più alto di noi, e noi dobbiamo guardarle le cose verso il cielo. Io non so così, ho il massimo rispetto, mi Natalie, il massimo rispetto, sono un grande galantuomo, Natalie, una donna la posso invitare anche a cena, e quando invito una donna a cena, la invito per proprio per andare a cena, ricordando di affettuare il portello, però diciamo non sono tutti come me, Natalie, magari qualche subito le ha fatto, però c'è una messia che glielo dico, glielo dico però poi con tanto di rispetto di tutte le sue idee, perché però ci sono queste, Natalie, come hai fatto tu, queste che parte già con la quarta infinita, e quelle io le metto subito una parte. E infatti, perché sono prevenute, non lo so, già, sono troppo aggressive, e poi loro si lamentano che gli uomini scappano, per forza scappano, se tu non, se non hai niente di femminile, sei peggio di un maciumaro, è logico che l'uomo scappa, se vede una che non, è, non ha niente di femminilità, giustamente scappa l'uomo, Ti volevo chiedere a Natalie stasera, mi è venuta una persona, non so, se conosci quello che c'è l'autocarrozzeria andando verso Canica, lo conosci giù con l'autorizzazione? No, negativo. Ok, no, però deve essere un conoscente, se mi potevo fidare a farle fare qualche lavoretto. Io ero in garage, venuto in avanti, è perché abito le motociclette, non niente, non cristallo, si dice una carrozzeria, però se non lo conosco come era buono, una volta io quello lì gli ho fatto portare 55 perché c'avevo un carro a 13 che aveva, e sempre mi ha rubato. No, non ti so dire, se non ti so dire, non ti so dire. Sì, ok, niente, ho pagato, se era buona pelle, però fare qualche cosa, qualche lavoretto. Ok, capito Natalie, non dovevi prendere, ci devi mandare subito a quel paese, perché dove Natalie? Ce ne trovano tanti, capito? Non è che devi stare nulla, fa fanculo, scusate il termine che mi è uscito per questo adesso, e basta, e che come si dice al baracchino è cambio svolto, capito? Aspetto, diciamo come che sono a pesca, a boccare il pesce buono. Ma questo manco ti rispondo, non ti degnano di nessuna considerazione, boh, come che loro siano chissà cosa, e la voi magari, boh, io non ho visto tutto questo, infatti ne tolgo anche il profilo, perché guarda, mi hanno disgustato. E allora perché chattano queste? Ah, boh. Non lo so, evidentemente gli piacciono i delinquenti, boh, non lo so, le persone per bene a queste persone non gli piacciono, penso. Ma tu quando chatti non la vedi in faccia? Sì, perché tu metti una tua fotografia e lei mette la sua, capito? Molte volte la fotografia è falsa di queste persone, non sono neanche loro, capito? Ma a livello di telecamera non funziona? No, niente telecamera, questa è una chat solo per scrivere e basta. Ma io ne tolgo profilo e quanto c'è, perché intanto non mi interessano queste persone qua. Oh, infatti, Natalie, ma c'è una roba che ho sentito io, non mi interessa, mi è interessato il computer per certe cose, ma c'è anche un chat che, diciamo, parlano come stiamo parlando di una paracchio, portando le telecamere, un chat del genere. Ehi, già c'è, MSN, già c'è, ce l'ho anche, però possono entrare solo quelli che inviti tu, capito? Non può entrare altra gente esterna. Capito, ho capito, non mi interessa, non mi è mai interessato, e mai mi permetterò, io sono la radio, ciò come non vuole, mi voglio anche il trattacchino, il cacciacchino, perché sono mandone, degnano neanche di considerazione, capito? Là? È quello che a me mi... boh, infatti mi cavo tutto e si rabbia in nome di vostra madre. Tanto inutile. Queste persone non sono degne della mia attenzione, diciamo così. Perché io non è che vado, io vado per cercare amicizie e cose, invece lì c'è gatto blu più. Boom. E lo so, Natale, una persona che so ha capito il normale che va a cercare certe come si chiamano, diciamo, iniziative, hai capito anche di cui si può trovare l'anima gemella, hai capito? E l'altra invece non c'è più ritentato, l'altra. No, non si è fatta più sentire, ma no, non mi va, capito? Perché tu non sai, io ti ho conosciuto, c'è una persona che merita, una persona che è abbastanza affabile, brava, affennata, hai capito? Invece, come stai dicendo tu, che ne sono in questi corsi che chattano, tu scrivono in faccia, tu l'altra faccia non la vedi chi sono. E infatti tu di persona non mi conosci a me, per sapere chi sono, chi non sono, non mi hai, non abbiamo parlato a quattro occhi in modo da sapere che persona sono io. Perché io una donna la catturo come voglio quando la conosco, ma così non c'è modo, capito? Tu non sai con quale persona stai parlando. Comunque Natale, trovando il discorso lì, bisognerebbe, diciamo, ma io non ci avrei più, ma con questo tempo, però ci sono tante cose Natale, con delle persone che si possono anche approfondire, le persone andando magari, non come si chiama, la discoteca, non come si chiama, e così persona e nasce un piano e può nascere anche una nuova unione duratura un domani, però diciamo che io mi metto in un computer che vado a cercare l'anima gemella nel computer e non esiste, oppure per scrivere, per parlare via tastiera, non mi mettere tanto e mai mi interesserà. E infatti è una cosa troppo fredda, squallida, capito? Non va bene, manco amicizie puoi cercare così, perché non fa. Infatti, no, ma se non la telecamera, che io poi devo dare il corso, hai capito, anche se con questa, per vedere la faccia bella qualunque sia, dove sembra tanto una roba corretta, hai capito? Io la persona ho avuto sempre i contatti, hai capito, il mio ufficiale, e che però le persone può essere bella, Natale, quanto si sia, però se una persona è bella, che non è ben arrivata, che già tutte queste come si chiama, a me non mi piace un nome pubblico per la festa, hai capito? Una persona non può essere bella, però può essere simpatica, ben, diciamo, chiacchierata e io quelle persone le stimo molto, Natale, il dialogo si vuole, io lo guardo molto il dialogo, non è che tu sei bella, lei è bella, infatti io devo fare il retravicello, almeno non mi va bene. Infatti, e io poi non sto chiedendo una cosa impossibile, sto chiedendo una donna normale, buona padrona di casa, come si suol dire, e che sia normale. Non, queste sono troppo aggressive e si lamentano poi casa, che gli uomini scappano, per forza scappano, se ti vedono così scappano, sì. Allora, no, ma io non mi fido neanche di queste che mettono, forse e forse noi compriamo l'occasione, ma non... Ma poi no! Queste cose all'inverno matrimoniale, a salire, di come l'occasione, molte volte, per tante cose, per esempio, per roba musicale, quindi una volta l'ho presa, arriva qualche cosa di amplificazione, abbiamo anche trovato qualche volta l'occasione che ci interessava, però molte volte quando si sfoglia si arriva anche alle pagine dove ci sono queste e questi che mettono la un po' Gianni Capri 2. Ma dove sta arrivando il segnale a te? Gianni, non ti sente, Bombolo? Parla un attimo riguardo il segnale. Gianni. Sì, adesso già mi senti, Anto. Un attimino, però non posso lasciare molto alle volte che mi crei della radiofrequenza. Mi ascolti adesso, Anto, buonasera. Ma che ti ascolto, vedi? Adesso sì, Santiago, sì. Grazie a te, però io questa roba perché non ci sono le balanzetta, vedi, non è che lo posso attaccare, altrimenti fa anche danno. Comunque è sempre un piacere, Anto, ti ascolto adesso io un po'. Ti ascolto, mi ho messo le cuffie, riesco a ascoltarti e ripeto, ti auguro una buona sera anche a te. Adesso faccio un attimo e noi poi facciamo pianto se rientra Gianni e Pierpaolo. Ma spiegami una cosa, Capri 2, ma quanto c'hai stazionarie? No, non è altro stazionarie, non è a nulla quasi l'antenna, è che diciamo io ho messo un palo, capito, non posso ancora sollevare da dentro la soffitta e lei alza, però alza un altro pezzettino, lo devo attaccare ancora un altro mi palo, e poi vedi che non mi dà la radiofrequenza indietro e allora perché sono spostato, tanto l'antenna c'era manto, ma però sempre il palo più metto, non era molto ma quindi devo aggiungerti un altro, ma l'ho fatto per via delle tappe che erano ancora fresche, ma adesso ormai sono entrate, diciamo, capito, inflessione, chiaramente non chiede più nulla, però appena c'ho un minuto libero lo altro, il palo che lo già. Ok, Natali, ripeti. No, ma penso che non li faccia proprio nulla, ho capito, c'è delle stazionarie, l'antenna sta sbucando fuori, siccome è un'antenna diversa dalla grande, non c'è il radiale in basso, c'è già verso l'alto, quindi la maggior parte delle radiazioni è fuori, quindi no, non ti dovrebbe dare noia, no Natali. Sì, perché se è a zero di stazionarie, se sei sicuro che è a zero di stazionarie, cioè a uno, uno e uno, perché di solito sono così. No, non ti dovrebbe dare noia, confermi Natali, perché la radiazione è in alto. No, che non stai radiando quell'antenna di Gianni che è troppo bassa. Minimo deve essere un quarto d'onda sopra il tetto e c'è un metro di tubo. Io non credo che sta lavorando male l'antenna. E poi non lo senti che va in saturazione quando attacca. Capito? 9:10 mi stava arrivando, però si sentiva che andava a colpi. Proprio perché non sta lavorando l'antenna. Quando tu attacchi quella cosa, ti torna indietro la radiofrequenza. Capito? Non riesci a allineare quella situazione lì all'apparato. Quello lì potrebbe essere anche un altro fattore, dipende quanto ingresso gli sta dando anche Natali. Non lo so. Ma comunque guardandola un po' dovrebbe andare senz'altro meglio, ma quanto sbuca dal tetto Natali? Poco, un metro. Non va bene, no? Perché deve mettergli l'altro palo Gianni, capito? Si ha già rovinato due lineari per quello, è proprio perché si fa quel discorso lì, lui quando attacca gli salgono per forza, capito? Poi non è l'antenna, quando non è almeno un quarto d'onda sopra il livello di massa a terra, non irradia bene, capito? Deve avere almeno un quarto d'onda minimo, e sarebbero almeno 3 metri pure dal tetto. Ma secondo me se l'antenna non c'è stazionarie dovrebbe andare bene lo stesso. La saturazione può essere anche un altro discorso, può essere che sicuramente gli si dà troppo ingresso alla cosa. E bisogna capire bene le due cose, secondo me può essere ma può anche non essere. Come ha fatto allora a rovinare due lineari nuovi, i valvolari, secondo te? Allora, l'antenna, non con quella, piatti, non con quella. È la stessa storia, perché è bassa. E ti sto dicendo che lui quando alza l'antenna è tutta un'altra situazione. A parte che gli migliora la ricezione della trasmissione, no? Perché lavora come si deve l'antenna. Lui cerca anche male lui adesso. Quando la saliamo con l'antenna di Gianni se ne accorgerà anche lui che funziona meglio la situazione. Quello senza ombra di dubbio, Natale, quello senza ombra di dubbio. Però da una Grand Prix che è fatta in un certo modo ed è una Mantova che è fatta in un altro modo, secondo me, cioè, non è che dovrebbe influire molto a crepparti le cose. Non lo so io, perché se sta sbucando certamente che se tu la alzi sta tutta la sua funzionalità. Però la saturazione può essere anche un'altra cosa, può essere che praticamente no, gli dà proprio ingresso e fa quel difetto lì. Ma comunque quando ci sale, vediamo, cioè, ci vedrà. Infatti, ma non è solo saturazione, è che quando parla lui sembra che vada a colpi, mi capito là. Non è una modulazione bella liscia, nulla, sembra che vada a colpi, perché sta lavorando male l'antenna e quella scatoletta lì, capito? E quello è il discorso. Un attimo che vado in cucina a prendermi dell'acqua per bere. Brava. Capitolo, ti voglio fare una domanda. Quanto ingresso metterà da quell'affarino? Sono 4 tappe, non è di più, aspetta un attimo, te lo dico subito, un attimino. 10 watt. Quattro watt sono. 4 watt, ho controllato sul fatto, penso, 4 watt, normalissimo. Un voto d'ingresso a quella farinone che stai dando. Ehi, quanto ho fatto d'ingresso qua? Dica, prova a andare, prova. Prova a salire, a vedere cosa succede, ma qua si tratta di capire bene se è quello lì o cosa cavolo sia. Ma è l'antenna, come detto Natalino, è l'antenna perché l'abbiamo già sperimentato, non l'ho alzata molto il giorno perché stavo aspettando a solidificarsi bene il cemento, hai capito? E niente, adesso lì si mette un altro palo e la roba allora fa la grande, perché anche in ricezione non è che ha migliorato molto. Guarda, io ci scommetto che da quando tu hai montato quell'antenna lì prende molto più splatter, molto più colori, vero? Stavo dicendo, Antonio, quanto è adesso il segnale lì? Allora, qua c'è in Santiago di sì, da 1 che vedi, da 0 che vedi, adesso sì, c'è un'enorme differenza. Ma la radio buona è lì? Un po' di compressione, ciao. Quello lì è quello che stai dicendo a Salino, è compressa per quel motivo lì, capito? Non stiamo lavorando male come radiofrequenza, e quindi bisogna molestarla in modo, perché l'antenna si becca anche la serrata che è più vicino e niente, e non dava Enia, bisogna che devi mettere l'altro palo anche. Ok, Natalino, ci sei? Già ci sono, però se andiamo sul 21 è meglio, così mi metto a letto e attacco l'altro apparecchio, capito? Posso parlare anche da coricato, diciamo così. Ok, aiuto. Che sul 21, là? Già, io ho capito due. Antonio, già, senti, senti un po' meglio là. E l'altro sta usando un altro apparecchio. Ok, e qui come ti arriva il segnale? Ecco, è sempre così, se Santiago, sei. Ma spiegami una cosa, capito, ma tu la stai usando, un retaggio stai usando? Via. Ferme. Sì, ma non va bene a voi, perché anche qui si sente che mi lascia, capito, la lancetta è collata, devo usare due punti di portata per farla scendere. Ma tu come amplificatorino, dettagli? Via. Allora. Sono sempre un po' così sono. Io guarda, ho la convinzione che se io lì ti monto il 747, tu lì esci una bomba, te lo dico io e non Sature. Mi sono troppo convinto. Non voglio attaccare nulla il vecchio, perché mi piace non attaccare, purtroppo c'è anche una montagna da superare, ok. Natalino, pronto sei lì? Sì, signore. Ok, adesso ho cambiato apparato, perché tengo questa roba che non deve attaccare. Ok, ho cambiato apparato. Perché quel tipo di coso lì ha un tipo di finale a MOSFET che non ti fa saturare. Fino a 10 watt se alla grande se, per quello che sono buone, ma la so se. Sì, Natalia, adesso ho attaccato i miei alla stazione base. Via, non c'è problema. Io ti ascolto sempre bene. Comunque, con la pelli, tre fa anche quell'altro, se lui insiste. Se non alza l'antenna, perché non stai lavorando bene, capito? L'antenna, quando non lavora così, non riesce a lineare, è quello il discorso. Ma io non sta lì a se lo staccato, è proprio una questione di sollevamento l'antenna, perché mi accorgo che qui molte volte mi lascia la lancetta della portante che si dica. E perché quando tu sali l'antenna te ne rendi conto che ricevi anche bene, e ricevi di più, perché non sto lavorando bene adesso in questo momento l'antenna, hai capito la cosa del discorso? Quello Natale, il discorso è basato tutto sull'altezza, perché me ne accorgo che come ricezione Natale non ha migliorato niente. Quella è una 5 ottavi, non è una un quarto d'onda, no? Con quella dovresti ricevere molto di più, ma molto però, e non poco. Ma è come si chiama di quella carica che avevamo controllato? Quella lì riguardava solo lo filo centrale, così. Non ho capito, quale carica stai dicendo? Che avevamo misurato lì, solo lo filo centrale riguardava anche lì. Quella che avevamo misurato, fammi capire, che carica era? Carica che abbiamo misurato va a grassi, con tester. Per quella è per vedere se andava in cortocircuito l'antenna, perché deve lavorare in cortocircuito, se no non lavora. Infatti, quindi era quella lì la fossola. Quindi a te te ne accorgi, ma fatto vedere più e il mio lì deve essere in corto. Perché tu tocchi, ma polo caldo e polo freddo deve segnare in corto, deve segnare, se no l'antenna non sta lavorando. Qui me ne accorgo anche da dentro casa. Per forza, tu togli il coso, il cavo dell'antenna, dall'apparato, prendi il test e misuri polo caldo e polo freddo, se non è in corto non sta lavorando l'antenna. Infatti, col test devi toccare linea e massa e deve segnare in corto. A me una volta mi ha fatto il discorso che non mi segnava, cazzo, ma allora l'antenna non è travagliente. Infatti non stava lavorando quella turba, cioè lui, mi ha fatto diventare matto tu. Già lo so, già lo sono a terra. Ma se non lavora, ma io penso che quell'antenna lì stia andando bene. Perché se non avrebbe lavorato il corpo, non è arrivato manco a Sassari. Ah, magari già è arrivata, ma non sta lavorando al 100% l'antenna, sta lavorando in una quarta d'onda, capito? E non lavora con le 5 ottavi. Con le 5 ottavi lavora quando è in corto quell'antenna lì. Anche quella della macchina che ho io, quella lì, una 5 ottavi io lavoro in corto, quella della Sigma. Lavora in corto circuito perché c'è la base in corto proprio. Già lo so come funziona. A voi già lo so. E lavorano così quelle tipo di antenne lì. Se non trova in corto no anda. Ma io ho controllato in corto perfetta. Forse te l'ho detto che lavora in corto, vuol dire che so quello che sto dicendo. A parte che l'ho misurata la fusale, no? La carica lì. Quell'antenna deve lavorare in corto, è proprio per quello, se tu non alzi, non lavora l'antenna, come deve lavorare. Una volta a me mi ha fatto quello scherzo lì di non fare il contatto, no? E io stavo facendo sempre questa antenna così, però me ne accorgevo che usciva più basso. E che riceveva soprattutto più basso. Ha giudito ma strano di l'antenna, ragazzi. Il rubetto mi ha fatto a capo, ho cambiato il rubetto. E non mi segnava il corpo, beh, lo sai, tre volte non avevo dovuto accendere al tetto, mi ha fatto diventare matto quella montata a turbo. Poi sono riuscito a mettere a posto, poi era bassa, ma stava lavorando come sta lavorando l'antenna tua adesso. Capì? Non era alta come adesso. Adesso sì che me ne sono accorto che i segnali sono cambiati, che la gente mi arriva più forte, e più forte arrivo io e loro, capito? Normalissimo, è normalissimo Natale, perché è così, è fatta infatti prima di montarla, anche gente che lo sa che ha avuto l'esperienza di trovarlo fasciato, il filamento eccetera eccetera. Prima di montarla, ma io lo dico sempre, e chi lo sa lo dice, cioè, quando è in terra, pigli e la misuri, cioè, tanto te lo dà subito, se l'antenna va bene ti ne appigli subito. E infatti, io prima di piazzarla, siccome sono stato scoppato dalla prima, e allora me l'ho controllata prima di piazzarla e tutto, lo sbaglio che ho fatto è che ho messo a 7 cm da carica e non andava bene così in dottanza lì. Allora ho preso e l'ho regolata e adesso non è nessun canale di stazionari, sta andando alla grande l'antenna. Sono cose strane insomma, perché Giuseppe l'ha messa lì e fa che una bomba, stazionari è uno e uno, appena si muove tutti i canali. Sono dei fattori molto strani, quella lì è uscita così come tante altre, addirittura quella di Massimiliano più su del segno. E a 12 cm quella di Massimiliano, ma quelle sono misure che magari hanno sbagliato, è logico che devi salire la carica di più. Per esempio c'è gente che ha trovato la carica staccata, la carica interna di conduttanza interna, staccata proprio dall'antenna, non lavorava per niente in corto, perché l'hanno piazzata questa antenna e si sono usati di prova della gattosa. L'antenna nuova, mi gente che non entrava con il tubo in vetroresina, perché era più grosso e non entrava nel coso dell'antenna. Figurati, qualcuno l'ha staccata pure dal cremato, ha capito? Erano tutte difettose. Per quello che si consiglia sempre di controllarla quando è bassa, la controlli direttamente su, almeno non perdi tempo, sei sicuro di quello che stai facendo. Tanto ti disegna a me, te lo segna anche se stacca il TL da su, cioè, appena montata, tu puoi essere che lo segna, perché deve lavorare in un certo modo, bassa anche. Te lo segna subito, hai un'inizia B, testa. Se no non fate, vuol dire che muove la terra. Infatti, poi basta che tu controlli se io non lavoro in corto, tranquillo, dell'antenna c'è qualcosa che non va. Perché tu te ne accorgi dalla bocca la coperta, il caldo, no? Oh, sì, sì. Fatto così quella. Infatti. Una cosa che ti ha fatto è tu misuri il corpo tra la massa e lo stilo centrale, che è separato, e deve segnare, anche così, perché se non segna lo stilo non sta andando. Già, con antenne così grandi, comunque c'è poco da fidarsi, ecco, così tu sei sicuro, quindi monti tutto, tirante, cante di esiste, da poi ti hai detto rapparati, fate pure incazzare. Quindi sarebbe meglio sempre controllarsene prima le cose e poi montare tutto quello che c'è da montare. Infatti con Gianni l'abbiamo misurata prima del tester, prima di comprarla, perché io non mi fidavo che sapevo che erano tutte difettose queste antenne. E prima di andare a comprare l'ho voluta misurare per vedere se l'antenna era come la volevamo noi. Capito, Gianni può confermare qua. Yeah. hanno quello, poi c'è il 120 kg tipo questo qua, la tramonta. Col barattino acceso che sta invertito in fila, ed atteso, tanto in protezione. E che si messo la cosa subito, spento subito, non gli ha fatto niente. Sì, perché hanno la protezione anche contro il cortocircuito, e vuole così, perché ci vuole poco a sbagliare, meno è stato appena appena distratto, e magari cambia polarità. E logico, la pareggia si brucia se non è protetto contro il cortocircuito. Anche il nuovo 747 è così, Natale, non lo sapete. Sì, gli alimentatori sono protetti adesso, è tutto diverso. Adesso sono protetti anche gli alimentatori, se tu poco a poco gli metti il rosso nel nero e viceversa, si spengono, no, perché vanno in protezione. Sì, anche gli apparecchi, ma era ora, cazzarola. Era ora, perché se guarda l'avrò fatto ruolo, sicuro che avrebbe bruciato l'apparecchio. Sicuro, anche se la parte del fusibile molte volte no. Sicuro, Sì, perché il fusibile non fa un tempo a saltare e la corrente, se il fusibile non è abbastanza basso, non passa ugualmente e ti brucia l'apparecchio. Invece quando c'è la protezione, già dall'alimentatore per esempio, quando va in protezione non gli fa passare corrente. Già, poi comunque era ora che la tecnologia si mettesse in testa di fare anche queste cose qua, perché se tu ti ricordi bene, prima la gente che bruciava parecchi, già te lo ricordi già. E è andato, perché basta una distrazione, quando tu lo stai attaccando, tutti dalla minestra, perché bruci. Uno o due ne hanno bruciato per inversione in polarità. Sì, ma è giusto che sia così. Per esempio questo qua, come questo apparecchio qua, come l'S9, come apparecchi che stanno uscendo ultimamente, se tu stacchi l'antenna, comincia, come si dice, a suonare. Perché c'è quell'altro nero, quello del quel frontalino, quello lì addirittura te lo segna. Quello sugli screen si mette ad ampliare la scritta SWR. Sì, capito, che c'è stazionare qui, che non lo fa uscire. Ma era ora, Natale, di farlo così, era ora, perché... No, fa una sciocchetta, magari fa l'apparecchio nuovo, che fa una sciocchetta lo bruci, ma va a fanculo. Addirittura ti dice i volti che gli stanno arrivando all'apparecchio, tutto quanto negli studi esce in quello piccolino che ti stavo dicendo, esce i volti che sta lavorando, se c'è il stazionario, ti dice tutto, mi. Perché io te lo faccio vedere, io non mi collego l'antenna e lui mi dice che c'è il stazionario, e noi esci. Ma è meglio, io sono contento, che le facessero sempre così, sempre, anche finali sono migliorati, sono MOSFET, cioè, io guarda, quello che tu hai in macchina, adesso c'è finale a MOSFET, cioè, io vorrei sempre che uscissero così. Ma se ci sono apparecchi dell'ultima generazione, vari materiali proprio, che i finali ce li hanno a MOSFET, e sono apparecchi che erano dai 200 ai 400 watt, e sono apparecchi a MOSFET, hanno i finali a MOSFET, figurati. Capito, no, è orgoglio quello che c'è in macchina, no. Sono i Mitsubishi, questi sono molto buoni, fanno bene, raffreddano subito poi. Quella che c'è in macchina ha lo stesso senso, un baracchino del caldo, eppure c'è il finale a MOSFET. Sì, c'ha come questi qua li monta, mi sembra. Sì, li monta come questo qua. I Mitsubishi monta. No, sono eccezionali, su quello non si può dire niente, sui costi, cioè qua. Meno male, che le facessero sempre così. E poi adesso la tecnologia ha fatto passi da gigante, è logico che sono così. Gianni, ancora ci sei? non è ben accetta, carissimo Gianni, capito? No, diciamo, non è che posso intervenire molto, perché di questi apparecchi, diciamo, con la professione non ne ho neanche uno, però, come stai dicendo tu, la tecnologia ha fatto passi da gigante, sia sugli alimentatori, sia sugli apparati, e anche su altre cose, che prima per uno sbaglio di coso, di un'inversione di polarità, si partiva l'alimentatore, e per le stazionarie ci mettevi l'apparecchio, anche se lo riparavi, poi non era più come quando era nuovo, riprendi. Infatti, infatti. Ma ancora là devo dare la cosa a te, te lo sto dicendo, se no non usciva, se non andava in protezione, no, ti devi no, andare a Panguala. Che lui non usciva se tu non gli mettevi la posta l'antenna. Infatti no, ma è giusto che ci siano queste cose, noi invece mi sono, hai capito? C'è da saltare, salta e una notte, hai capito? Perché ne sono queste protezioni, poi diciamo l'apparecchio riparato, quando magari non trovi il transito originale, devi andare con l'equivalente, non è più come, ripeto, quando era nuovo, tutto lì. Però queste cose che stanno facendo adesso ci salvano un po' da queste, diciamo, distrazioni, le chiamo io, sull'alimentatore, perché sull'apparecchiatura non è una distrazione, se uno sa che c'è stazionale non deve modulare tutto lì. Mi prendi una parecchia e vado a bermi un bicchiere d'acqua, giù, perché c'è un po' di come si chiama, di acciura, prendi. Avanti, bombolino, va. È proprio così. Cappa, ma stai tornando già? No. A me è andato, che ci aveva sette. Cappa. Sì, sì. È così, Natale. Io mi auguro sempre che migliorassero sempre queste cose qua. Perché almeno uno non rischia anche di fare minchiate, di bruciare tutto. Infatti anche gli apparati adesso sono protetti contro i cortocircuiti, sia gli alimentatori che gli apparati. E se no, non potrà bruciarli. Chiappa. E poi dice che prima ne raccontavano all'ordine del giorno. Bastava una cazzata e non ti napizzavi. Specialmente in macchina con la fretta di attaccare gli spinotti sbagliavano, uno o due ne hanno bruciato così. Cazzo. Ma io non lo so il tuo, ma l'elettro istruzione ce l'ha l'inversione polarità. E quale? Tuo. Ha preso di sì che ce l'abbia, già ce l'ha l'istruzione. È logico che l'ha, sicuramente l'ha. Vabbè, io ho fatto quello spinotto che c'è l'ingresso obbligato, se non è in quella maniera non entra. Ma è possibile che gli ha lasciato il suo, sì? Vabbè, mi pare dubbio. Curiosità a toglierla, guardalo com'è. È un pochettino strano. La verità non l'aveva dato perché non l'aveva mai aperto quello lì. Te lo guardo, vero? La gabbia, non lo so se è così quello là, una molla dentro. E magari sono fatti in modo da saltare prima, se succede qualcosa. E sono diversi da quelli che c'erano un tempo. Ma, già ci sono anche quelle. Ma comunque, il mio disipatore che va da lì, o no? Infatti, perché c'è fino alle MOSFET e quindi... siccome si può modificare quell'apparecchio lì, l'hanno previsto, no? No, lo prendiamo subito anche, io lo noto da questo qua anche, che c'è un bel po' così con la porta aperta. Con quei 5 minuti magari che parli tu e lo prenda subito. È fatto apposta, quel dissipatore lì serve per raffreddare il calore, capito? Se non raffredda l'apparecchio, si brucia il finale, c'è poco da fare. Serve per raffreddare i finali quel dissipatore lì, grosso così. Questo non ce l'ha là. Ma io diverse parti da questo. E infatti cazzo c'è una bomba, mi segnali. L'unica cosa che mi dispiace è che non posso agire su quel tasto che dice tuo padre, perché deve essere, non so, visto qualche via, ma se me la faccio controllare me la faccio tornare normale. Il modo lo posso mettere quando voglio io, con quelle funzioni, e quando non voglio rimane normale. E questi qua, no, cioè il tuo mi sembra che riescano a mettere, vero, il tuo, se non mi ricordo male, questi invece sono tutti pari a codici. No, questo è a lettere, quello che ho io. Dove lo so. Ma tuo padre ne ha uno che è come il mio, però il suo lo può tornare normale volendo, invece il mio no. Deve essere che gli ha fatto qualcosa quel tecnico per dargli tutto, rimane sempre così. Ma no, a me non mi piace così. Scappa. Stavo dicendo, vaffanculo, mi sono strippato. Non è così grave. C'ho il coso, lo schermino dell'apparecchio è legittimo. Lo schermino dell'apparecchio? Scappa, il display. Beh, ci sia. Ma il tuo? No, oh, il tuo. Lo so. È una nuova tecnologia che adesso li fanno tutti così. Prima mi sembra che era una quarta, o cosa marazzoccia. Infatti, segna tutto, infatti che c'è parecchio. Tutto quello che l'Italia ti segna tutto. È un apparecchio del cavo che io uso in macchina, però già funziona. E tu poi da la faccia 220 portatile. È un portatile che non è questi giorni che ne vedi così. C'ha tutto, da là alla Z. Questo pure è questo portatile. Hai visto l'attacco come? No, non l'ho visto bene la situazione, però già è una cosa seria. Ma tu trovi un altro portatile CB che si può mettere, che si può mettere anche l'attacco, c'è un attacco che fa, accendi sigari, antenna, tutto in uno. Quelle sono cose studiate, sono la tecnologia ha fatto passi avanti, capito? È logico che, anzi, passi da gigante, diciamo così. Se sono a vuoto, ma per io l'ho aperto l'altra volta per vedere come l'ha fatto, ma pari non vedia nulla. Tutti questi microcomponenti che non puoi neanche toccare con un salvatore normale, se no rovini tutto. Ci vuole quella aria calda per poter agire su quei componenti lì. Sì, è fatto così. Togli in quel portatilino, togli le batterie e lo attacchi così, accendi i sigari e l'antenna della macchina, un bel comodo, cavolo. Attacchi l'apparino sotto, tra una vettina e via. Mi sono visto come cazzo una merda di apparecchi. Per essere un portatile è anche troppo bello. C'ha tante funzioni. Faccia l'SP, il compressore della modulazione, se no, si può dire niente, guarda, è veramente bello. Infatti come l'ho visto, si è innamorato una persona e se l'ha preso subito. Uguale, no? Ah. Aspetta. C'è il compressore sia in entrata che in uscita, capito? Se prendi il segnale debole, se tu prendi adesso sei Santiago 9.15, te lo porto fino a 9.20. E anche il mio è così. No, va, è veramente bello, tutti i canali, c'ha lo schermo LCD, è veramente bello. Non è posto di nulla. Infatti, se qualche giorno lo faccio vedere a Gianni com'è e tutto quello che fa. c'è una voce troppo bella, perché c'è la stessa funzione che c'è quella di tuo padre. Scappa. Sì, sì, sì, più o meno è così. Ma va bene, vanno molto bene come. Ma poi soprattutto non pigliano i colori, gli apparecchi. Il bello di quegli apparecchi è che non prendono splatter, non prendono colpi. Troppo bello. Ma mentre quello era 48 a sacchi di biliardo, non so dove accarassi i colpi. Cazzo. Arrivavo vicino a vedere da che parte che sentivo Gian Maria che era chissà in quale canale parlando. Invece un video abbattimenti proprio inesistenti. Perché i battimenti li prendevo con l'ala 48 a Carasci. E una puntualità che ti tornava lo smetteva a zero e con gli altri non potevi parlare perché non li sentivi. Furugrizio è così, questo qua è così. Marco, se ti intendo me, se per esempio, già lo sai che sono vicino di casa e parla, però è cosa succede, io lo sento all'utente in gatteciaro, no? E altro, cioè non lo sento che ti disturba, hai capito? Ma poi vanno, va bene tutto, no? Ma anche l'ala 48, il BS6, siccome hanno la stessa scheda più o meno, hanno le stesse componentistica come questo, però cambia giustamente. Chi su Matteo i colpi non li piglia, no, non intende tu battimenti e cose strane. Alla 48 BSX. Sì, perché è un'altra concezione di apparecchio, no? È tutta una cosa diversa. Capito? Quindi il battimento non lo senti più e non. Ti sto dicendo, sono passato sotto a casa del Roberto, sentivo lui di sblatto, sono arrivato alla rotonda che è pochi metri più in là e non lo sentivo più. Chi gli colpi no? Quello è l'ideale, neanche se un apparecchio del cavolo, piccolino e cosa, non deve neanche andare in casa a quello. Non si disturba nessuno, senti solo guarremmo in senso, barra. E infatti. Passati voi siamo i più bambi sa parecchio, problemi non ne hai, né di battimenti né di splatter. Ti faccio vedere anche una cosa, se babbo parla, sai che non che mi bombardeggia, però se io sento un segnale forte, lo sento chiaro, ma se lo sento buono, se arriva un segnale buono. Quindi da adesso con un altro apparecchio non potevi parlare, no? Se tu vado a fare la prova a punire alla 48, quello normale, classico, lo giro via. Se mi vedi su, non mi riesco da terra questo apparecchio, perché no, diventa impossibile con tuo padre vicino, rapito, se tu hai un apparecchio normale non puoi usarlo. No, ma non sto dicendo di lui, no. Lui vabbè è un caso particolare. E so come senti, per esempio, gente da Romonti, che ha staccato la 48 normale in un minuto che non ti dia più nessuno. Quindi la paracarassi di colpi la 48 normale. È un apparecchio per usarlo normalmente in macchina e basta. E che uno deve uscire anche basso, perché se poco poco esce un po' più forte del normale, lo senti, con la 48 non c'è nulla da fare, sono delle rondezze, avranno anche una bella modulazione, ma come stadio di ricezione lasciano desiderare parecchi. Lo normale parliamo sempre, invece come quello che c'ha Gianni, l'altro, quello digitale, l'ala 48, quello digitale, quello non è così, il suo web non li piglia. Il BSX non ne prende, già lo so, perché hanno la scheda uguale a quella che abbiamo noi, diciamo così. Sono fatti in modo diverso, ecco cos'è. Quelli tradizionali non li puoi usare. Quello il modello per precedente no, che c'era anche quello multi, cioè come cavolo si chiama? Quello che ha a casa, quello normale, capito? Però è quel modello digitale, quello che ha display digitale, eccetera, eccetera. E quello lo stesso è fatto in una maniera che non è prende colpi. Sono addirittura più selettivo anche di altri apparecchi. Dimmi tu. Mi sembra che c'era anche Gianni Caffè 2, se non mi ricordo male. Beh, non lo so, bisognerebbe chiederlo se ce l'ha così. C'è ancora Gianni? Gianni, ci sei? Se è negativo vuol dire che la 50 lo ha trattenuto. Grazie. Vedi tu che concezione hanno? Sì, sono fabbricati in modo diverso. C'è solo quello. Vabbè dai, tanto io me ne faccio due reticche e me ne vado a letto, cazzo mi sono sveglio dalle due, dalle due cazzo ho preso e mi sono svegliato e non ho più dormito.